Andrea e Morena in Per fare un branco ci vuole un lupo. Storie di specie non classificate. Buongiorno e benvenuti a Per fare il branco ci vuole un lupo. Bene, buongiorno a tutti. Bene, bene, bene. Ormai non siamo più impreparati sul nostro titolo. Ben arrivati, ben arrivati. Ottimo. Dunque, noi in queste puntate abbiamo parlato di un sacco di cose. Addirittura avete seguito la crescita dei nostri cuccioli. Che di fatto quando, insomma, abbiamo iniziato, i cuccioli erano ancora molto piccoli, quindi dovevano ancora nascere. La prima puntata facevamo pronostici su quando sarebbero nati. Esatto, oggi invece sono cuccioli molto presenti, di 3 mesi e qualche settimana, una settimana se vogliamo. Sabato, hanno esatto. fatto 3 mesi. Quindi sono, diciamo, ormai dei signorini belli che formati e anche abbastanza, come dire, rompi presenti. Esatto. Detto questo, diciamo che allora in queste puntate abbiamo parlato di un sacco di cose, abbiamo parlato delle libertà animali, con aspetto fondamentale, non importante, fondamentale per chiunque voglia convivere con un animale. Abbiamo parlato del viaggio, abbiamo parlato dei lupi, dell'abbattimento dei lupi, del branco di lupi, cosa molto importante che per qualunque tipo di gruppo, o che sia possa essere aziendale, che possa essere, come dire, familiare, eccetera. Oggi vogliamo parlare di un aspetto, come dire, abbastanza spinoso. Decisamente spinoso. Vuoi dirlo te? No, dillo te. No, dillo te, dai. Dai, dillo te. Dai, dillo te. Dai, dillo te. No, dico io perché nel frattempo lei sta smanettando sull'iPad a cercare una serie di informazioni, ma, come dire, quindi, cioè, smanettando. In realtà sta litigando con l'iPad per una serie di motivi. Spesso e volentieri litigo con la tecnologia che mi circonda. Vabbè, è questo. Credo sia un problema mio, non suo, però questo. No, vabbè, è. Ma non ti preoccupare, condivisa questa cosa, lo sai. Detto questo, quindi, no, parliamo di un aspetto importante, che è il rispetto della vita di tutti quanti. Nello specifico, il rispetto della vita degli animali. Quante volte abbiamo sentito dire: ah sì, ma è solo un cane. Io stessa mi sono trovata più volte a, vabbè, in quel momento sicuramente mi è passato come sottofondo molto molto molto lontano, magari perché avevo il mio cane in fin di vita tra le braccia o situazioni analoghe, a sentirmi dire lontanamente da altre persone: ma si può piangere così per un cane? Sì, si può piangere così per un cane. Noi lo riteniamo a tutti gli effetti, ogni singolo animale che fa parte del nostro branco familiare è un individuo che fa parte della nostra famiglia, quindi sì, esattamente come sarei straziata dal dolore della perdita di qualsiasi individuo intorno a me. Però Moreno, se pensi un attimo, quello che tu stai dicendo è molto vero, molto reale. Però diciamo quasi, potrebbe quasi sembrare poco d'impatto, no? Perché dici, tu sei molto empatica, no? E quello che stai dicendo è per persone che sentono in particolare questa cosa qua, giusto? Cioè, nel senso, persone che hanno già una sensibilità sull'animale. Probabilmente la sì, sentono, dico, già, no? Personalmente io non so proprio come si possa fare a livelli, cioè, indipendentemente dal livello di empatia di una persona, non so proprio come si possa fare a condividere la vita, a vivere tutte le tue esperienze, le tue gioie, le tue emozioni con un essere vivente, scusate, e non viverlo come parte integrante della famiglia proprio. No, certo, no, quello che ti volevo dire è, se una persona ad esempio non ha un animale, non ha mai vissuto questa cosa, anche se magari gli animali. Era perché ti volevo far dire questo. Ah, un affetto? Perché... No, certo. In no, ma ti stavo dicendo questo per aiutarti a... Non sai che a me piace essere più polemico, questo lo sai. Perché devi aiutare me ad essere? No, ma per essere più d'impatto, no? Per essere più ancora proprio, come si dire, incisivi, eccetera. Parliamo ad esempio della vivisezione. Ecco, ad esempio. Lo sapevo che cercavi di evitarlo, dicevi tipo slalom, tipo Alberto Tomba. Per chi non lo sa, quelli giovani, Alberto Tomba era un grande campione sciistico. E ancora? Cioè, sì, nel senso, vabbè, ormai avrà 250 anni. Ma insomma, non dire, va tutto bene, no, anzi, salutiamo se per caso seguisse. Ma signor Alberto Tomba, ma ci mancherebbe altro. Rimane il fatto che magari ha 250 anni lo stesso, però magari si fa fare la settimanella bianca, via, un po' di sci così. Vabbè, usciamo da questo più il desastro. Dal signor Tomba, che salutiamo, buongiorno signor Tomba. Usciamo dal signor Tomba, orribile. Grande, non sì. Non si può sentire. Usciamo dalla Comunque... Tomba, vabbè, basta, lasciamo perdere le battute. Comunque, buongiorno, grande campione, grandissimo campione. Comunque, per quanto riguarda quello di cui ci occuperemo oggi, appunto, è il rispetto della vita e dell'individualità di ognuno, quindi della vita di ognuno. Ogni vita ha bisogno, necessita, ha il rispetto totale, ogni vita ha lo stesso diritto di vivere su questa terra e noi non abbiamo alcun diritto sugli altri, soprattutto non la vita di un cane, la vita di un gatto, la vita di un criceto, la vita di qualsiasi essere vivente ha pari opportunità e dignità. È curioso perché quando abbiamo detto ogni, siamo partiti in stereofonia, siamo partiti perché effettivamente è quello che pensiamo, nel senso, tu che ci stai ascoltando, prova a pensare al discorso della vivisezione, a questi animali che vengono dissezionati o a cui vengono sperimentate tutta una serie di farmaci, o peggio ancora, dei maledettissimi cosmetici di cui si può fare tranquillamente a meno, a costo delle loro vite. Ora, e se prendessimo tuo figlio a fargli una cosa del genere? Se gli aprissimo il cranio per sperimentare degli elettrodi sul suo cervello? Oppure se prendessimo tuo padre o tua madre e gli iniettassimo la qualunque per sperimentare che effetti può avere quel determinato cosmetico magari sulla pelle? O se prendessimo ancora, che ne so, tuo fratello o tua sorella e facessimo un discorso di questo tipo? È stato, per me è stato illuminante anni fa, facevo ancora le superiori, in cui stavo leggendo appunto un libro dove parlava di vivisezione. Io chiaramente mi sono sempre voluta informare prima di crearmi proprio una mia opinione in base in merito a determinati argomenti, soprattutto a determinati temi così, così scottanti. È stato notevole perché appunto non so quante scimmie sono state sacrificate per dei test, per dei crash test delle macchine, per arrivare alla consapevolezza che praticamente si mettevano queste scimmie nelle macchine e venivano spedite ad altissima velocità contro un muro. Qual era il risultato, il fantastico risultato, illuminante direi, risultato di tale esperimento? Maggiore la velocità, maggiore il danno. Caspita, interessante se ci non pensi. Non so quante scimmie sono state massacrate. Se pensi anche diciamo, a uno degli animali, tra gli animali più famosi della storia, che hanno determinato la grandissima evoluzione dell'uomo, che come sapete l'uomo è un essere superiore, e la scoperta dello spazio, la prima cagnetta che è andata nello spazio ad opera dei sovietici, Laika. Che poi la cosa curiosa è che effettivamente in quel periodo un sacco di persone chiamavano il proprio cane Laika, ti ricordi? Sì, che non è mai stato, in realtà infatti non era proprio di buon auspicio. I cani secondo me in quel periodo quando si sentivano chiamare Laika, ari daje. Ecco, quindi non pensiate che Laika sia tornata gloriosamente sulla Terra. Laika è morta da sola nello spazio, probabilmente al freddo, probabilmente per mancanza di ossigeno, chi lo sa, quindi tra atroci sofferenze e insomma in situazioni che non augurerei, credo, neanche il mio peggior nemico. Ah, è stata una cosa proprio in stile vittima sacrificale, nel senso che c'è stato tutto l'onore prima di portarla al patibolo, in quel caso anziché portarla al patibolo era proprio un discorso di metterla all'interno della navicella, tutti brava Laika ad applaudire, e lei dice boh, che ho fatto? Esatto. E poi si è sentita appunto probabilmente con una paura infernale, perché comunque cioè noi quando gli astronauti vanno sullo spazio hanno una preparazione, sanno che cosa sta succedendo, sanno che cosa succederà, sanno che cosa succede durante il decollo, quali sono le fasi, a che cosa si devono determinati rumori, determinate sensazioni, proprio anche la gravità stessa. Mentre invece il cane poverino si sente semplicemente passivo rispetto a tutti questi avvenimenti. Ma non solo, se ci pensi, per il cane, anche se per il cane come per altri animali, il volo è totalmente innaturale, quindi insomma non ha alcun senso. Questo per arrivare a cosa però? Quindi immaginate queste scene, no? Di questi vostri parenti, persone a cui voi volete molto bene, che vengono prese e dissezionate da questi enti farmacologici, piuttosto che cosmetici, piuttosto che macelli quelli intensivi. Vengono presi dissezionati o per scopi alimentari, o per scopi cosmetici, o per scopi farmaceutici. Mi ricordo una volta dialogai col direttore della facoltà universitaria di Torino, il quale affermò con estrema sincerità ed estrema determinazione che era importantissima l'sperimentazione animale, che così avevamo scoperto un sacco di effetti collaterali o addirittura proprio avevamo scoperto delle cure miracolose evidentemente di qualche malattia. Io semplicemente alzai la mano e gli chiesi a questa persona se aveva dei figli. Lui mi rispose di sì, e gli dico: perché non lo fa fare a suo figlio, visto che ci crede tanto in questa cosa? Sarebbe il caso, almeno loro potrebbero decidere, magari, no? Loro possono decidere se sottoporsi a una sperimentazione di questo tipo. I nostri animali non possono decidere di sottoporsi a una cosa di questo tipo. E chi fa di noi l'essere superiore? Forse ce lo dice la Chiesa? La Chiesa dice che l'essere umano è a immagine e somiglianza di Dio, quindi per questo motivo noi dobbiamo sentirci superiori? Ma veramente ci volete credere ancora questo mucchio di stronzate? Sì, lo dico proprio. Veramente ci vogliamo ancora credere? Dipende, se uno non ha mai avuto un animale può anche avere questo tipo di presunzione. Sì, sì, ma rimane il fatto, è come la presunzione di pensare che noi nell'universo, un universo infinito, siamo soli nell'universo. Ora, non è detto che l'UFO significa poi solo unidentified flying object, quindi un oggetto volante non identificato. Ma veramente vogliamo pensare, cioè non è detto che l'alieno di turno possa essere quello che arrivi sulla navicella e ci venga a trovare. Potrebbe essere sì, potrebbe essere di no. Rimane il fatto che anche organismi unicellulari o robe di questo tipo è quasi impossibile che non esistano ovviamente all'interno di galassie e universi sconfinati. Il fatto di essere così presuntuosi è una caratteristica principale dell'uomo, il quale insomma ha questa presunzione molto molto importante di pensare che la propria vita sia la cosa più importante. Pensate ancora che oggi, se voi doveste magari, mi auguro di no, fallire come azienda, fallire quindi a livello finanziario, il cane o il vostro animale d'affezione può essere sequestrato per fini ovviamente finanziari. Questo perché ancora oggi è considerata res cosa. Questa è una cosa aberrante, se ci pensate, oppure quando viene chiamato gli animali, quelli tipo mucche, pecore, come vengono chiamati, animali da profitto, reddito. Animali da reddito. Cioè, come fa a essere un animale da reddito? Me lo volete spiegare? Cioè, chiaro che vi dà il reddito, questo è chiaro. Ma come si può identificare una vita come una vita che identificata proprio come vita da reddito? Noi stessi effettivamente siamo vite da reddito, soprattutto persone che lavorano per altri, siamo esseri viventi, se pensate, esseri umani da reddito, perché ovviamente stai cercando di dare nuovi spunti a imprenditori senza scrupoli. Beh, sicuramente sì, ma di fatto voglio dire, anche loro stanno facendo questo tipo di attività. Rimane il fatto che già leggevo tempo fa di un microchip impiantato sotto pelle ai dipendenti per entrare e uscire senza dover timbrare il cartellino. Sì, fantastico. E c'erano queste persone che facevano vedere appunto con gioia questo chip sotto pelle della serie: ehi, io adesso non devo più timbrare il cartellino. Ma che cosa fantastica, finalmente. Vi consiglio riguardo a questo di andarvi a vedere un film molto interessante di qualche anno fa che si chiama In Time. In Time è una storia particolare in cui c'è questa persona che vive in questa società in cui il denaro non esiste più, esistono le ore di vita. Le ore di vita, che quindi tu hai una sorta di chip effettivamente con un determinato tipo di orario sul braccio, e quello identifica quante ore ti rimangono ancora a disposizione per la tua vita prima di morire, di spegnerti. E ovviamente ci sono persone che sono quasi praticamente immortali, persone che invece hanno un'aspettativa di vita molto molto ridotta, e tutto ciò che loro pagano, sia quando ricevono il loro salario, sia quando spendono, diciamo, per le cose comuni, cibo eccetera eccetera, pagano con le ore di vita. Se ci pensate, è un film molto interessante che apre delle visioni molto importanti. Ma al di là di quello, che adesso non era l'argomento, magari ne parleremo in altri podcast, quello su cui vogliamo concentrarci oggi è proprio il fatto del rispetto della vita di tutti quanti. E qui si connette tutto il discorso: l'abbattimento dei lupi, l'abbattimento dei cinghiali, la caccia. In realtà dipende come viene fatta la caccia anche in questo caso. Se l'essere umano caccia, siccome è un predatore, e si mangia la sua preda, eccetera, eccetera, con rispetto della preda stessa, ma su questo possiamo parlarne. Dal momento in cui non è così, dal momento in cui l'essere umano crea animali da profitto, beh, questo, voglio dire, lascia ampie visioni un po' particolari. Oppure, ad esempio, come vi dicevo, la famosa la vivisezione, no? Quindi il discorso in cui l'essere umano si pone a comandante della vita delle altri, degli altri individui, e ci sperimenta sopra la qualunque per vedere gli effetti. Vi dirò una cosa che probabilmente vi scioccherà: ci stupiamo tanto di vedere i campi di concentramento nazisti in cui ci sono questi dottori che sperimentano sull'essere umano una determinata serie di, diciamo, di, come possiamo dire, di soluzioni particolari nei confronti appunto dei, dei prigionieri dei campi di concentramento. Sì, ci diciamo non arriviamo di fronte a una cosa del genere. Quindi hanno effettuati degli studi importanti anche rispetto, ai gemelli, rispetto proprio dettati da, appunto, anche qui, curiosità scientifica assolutamente aberrante. E noi ci non ridiamo, cioè tu, tu che ci stai ascoltando, guardi i filmati storici dell'epoca in cui ci sono questi scienziati nazisti piuttosto che sovietici, perché i sovietici, come sapete, hanno fatto delle porcherie tanto quanto i nazisti. Quindi abbiamo questi scienziati che fanno la qualunque su questi prigionieri malcapitati, denutriti, che stanno male, eccetera. Ci non ridiamo e diciamo che giustamente, ma per la carità. Poi invece guardiamo e non ci non ridiamo a prendere il nostro, tra l'altro non so se lo sapete, con i prigionieri nel campi di concentramento a volte venivano fatti anche degli oggetti ad uso comune, coi capelli venivano fatte delle stoffe, insomma degli oggetti senza andare troppo oltre, sapone ad esempio, quindi venivano fatte tutta una serie di, diciamo, di oggetti uso comune. E su qua noi ci non ridiamo, giustamente, diciamo, oh, mamma mia, è una cosa allucinante, eccetera. Poi però ti prendi la tua bella cremina da mettere sulle mani, oppure prendi la tua bel farmaco cruelty free, che poi anche qua ci sarebbe molto da su cui parlarne, e non ti inorridisci pensando che magari quella sperimentazione è stata fatta proprio su uno di quei cagnetti di tanto che tanto si parlava un po' di tempo fa, che erano quelli di Green Hill, questi beagle che venivano trattati, bistrattati e maltrattati, oppure sulle scimmiette, oppure su altri animali che magari sono meno empatici, meno visibilmente simpatici, come un beagle o come una scimmietta, sul quale però vengono sperimentate in maniera atroce, ok, tutta una serie di sperimentazioni che vengono fatti da questi dottori che non sono criminali di guerra. Sono dottori, anzi, magari riconosciuti, anzi, magari noi gli diciamo anche grazie, grazie di aver creato questa, come si chiama, questa crema anti-age, no? Che ti fa stare ventenne da ottantenne, che ti cura le rughe, oppure grazie a questo rossetto, oppure grazie a questo, adesso non mi viene, mi vengono, non era per dire, non ce l'ho con le donne in questo caso, però non mi viene nessun cosmetico. Beh, guarda maschile. Che cremine anti-age da recentissimi. È vero, hai ragione. In assoluta parità, se okay. Non superate. Quindi ho detto una cosa che sta nella parità. Assolutamente parità. No, perché sembrava quasi ce l'avessi con... assolutamente no, nel senso, per me uomo-donna non cambia assolutamente nulla, per cui insomma... No, su questa cosa però non ci non ridiamo, o meglio, facciamo una cosa più semplice. Giriamo la testa dall'altra parte. Girare la testa dall'altra parte è sempre una cosa molto valida, perché noi non vediamo, quindi non sappiamo. Non sapendo, vabbè, non lo sapevo, quindi perché non utilizzare, insomma, no? Che dici, Morena? Eh sì, è sempre il discorso di fare un po' gli struzzi su quello che non ci conviene. Facciamo gli struzzi quando andiamo al supermercato e diciamo, ah, che bellina la fettina, guarda che bel colorito che ha questa carne, quasi quasi la prendo. Necessariamente io non ritengo che non sia importante mangiare carne, non ritengo che tutti quanti debbano essere vegetariani o vegani, che sia, ritengo che ci debba essere assolutamente la libertà di ognuno di scegliere come alimentarsi, come meglio crede. L'unica cosa che mi preoccupa e che mi spaventa guardandomi intorno è proprio la non consapevolezza quando facciamo qualsiasi cosa. Necessariamente per la nostra sopravvivenza è, ahimè, necessario, qui mi ripeto, che qualcun altro muoia, che sia esso un animale, che sia esso una pianta, che sia esso un batterio mentre lo sto respirando, che dire di quei milioni di lactobacillus ingurgitati dalla Marcuzzi, per dire, cioè sono anche loro esseri viventi, eppure non ridiamo. Diciamo che tutto va commisurato. Tutto va commisurato e soprattutto, secondo me, è il caso di ritornare a delle priorità, ovvero l'alimentarci è una priorità, sì, è una priorità. tenere animali a cui vengono asportate magari le palpebre per continuare a far gocciolare il mascara negli occhi e vedere dopo quanto gli occhi si arrossano, per testare il clinicamente testato, per poter apporre il sigillo di clinicamente testato sul mascara che andiamo a comprare? Beh, questo a mio avviso no, non è una priorità, e non riesco proprio a pensare che questo debba essere una priorità, non riesco a immaginare come questo possa essere una priorità, al di là delle sensibilità individuali. No, ma poi soprattutto, voglio dire, non gli è stata data scelta questo animale, ripeto, per me si possono fare clinicamente testato, assolutamente concedibile. Beh, ci sono molte persone che si propongono, per quanto riguarda ad esempio i farmaci, perché comunque qua adesso stiamo facendo, chiaramente è un discorso che è molto profondo, ma comunque sta trattando vari aspetti. Infatti abbiamo parlato tra l'alimentazione, la sperimentazione per i farmaci, la sperimentazione per i cosmetici, abbiamo proprio toccato vari aspetti. Diciamo che appunto per quanto riguarda la sperimentazione sui farmaci, per quanto mi riguarda, ritengo proprio che bastano poche cellule a causare pochi cromosomi di differenza, uno in particolare, a causare sindromi molto note, quindi differenze notevoli nel modo di percepire il mondo, nel modo di comportarci nei confronti del mondo. Quindi non riesco a immaginare come, non riesco a capire come, e ho letto numerosi libri, numerosi testi in merito a questo, come tante cellule differenti, come possono essere tra noi e il cane, come tanti cromosomi differenti, come possono esserci comunque come tra noi e una scimmia, perché nonostante si dice che deriviamo, la specie umana derivi dai primati, comunque qualche differenza, anche se guardandoci intorno ogni tanto non si nota, si notano certi, una volta no, certi anelli di congiunzione non indifferenti, però sì, come possa avere una valenza proprio da un punto di vista farmacologico. Spesso, ahimè, sembra più un ok, lo dobbiamo testare su un tot di animali. Non so se tutti sapete che tutte le cose che vengono messe in commercio devono essere, per decreto proprio sanitario, testate su un tot di animali, su un tot di persone, e allora poi possono essere messi in commercio, proprio a livello statutario. No, ma è quello che ti voglio dire, nel senso, nel momento che tu, cioè per me, allora, il fatto che si taglino le palpebre o robe di questo tipo e si controllano il mascara o il farmaco eccetera eccetera, su un essere umano che ha scelto una cosa del genere, ma per me è liberissimo di farlo, cioè nel senso, ma ben venga, se proprio queste ditte cosmetiche farmacologiche vogliono avere la sperimentazione, ma che ce l'abbiano, chiedono al tizio Caio, lo fanno, eccetera. Comunque la sperimentazione su essere umano c'è, non, sì, allora, sì, la sperimentazione animale non è che esclude quella sugli esseri umani. No, la sperimentazione, certo, animale è semplicemente un passaggio che è obbligato, anche se talvolta assolutamente infondato, ma è obbligato prima di passare alla sperimentazione sull'essere umano. Ci sono delle persone che per problematiche economiche e quant'altro fanno sì che le ditte sperimentino dei farmaci proprio, ad esempio fanno dei prelievi, degli esami biometrici prima e dopo l'assunzione di determinati farmaci, e ne osservano proprio l'andamento. Ma ci sono delle persone che si offrono volontarie. Sì, sì, sì. E questo è un discorso. Se io mi offro volontaria per tutte le motivazioni che posso avere dietro, per quanto personalmente la ritenga una roba allucinante, perché l'unico bene che in realtà abbiamo è la salute, se ci sono delle persone che però ritengono di offrirsi volontarie per un discorso del genere, vabbè, venga, sì, sì. È volontarietà, la, esatto, volontà. Quindi sostanza, per giungere poi a un termine, ovviamente. Gli animali sono nati semplicemente in quell'allevamento che produce, a livelli più alti magari possiamo dire hanno scelto in qualche modo, perché sì, se si vogliamo, sono, ma certo, reincarnati, certo, lì, ok. Restando su un piano un pochettino più base, sul piano più terreno, diciamo, no, non hanno scelto un cacchio e si trovano a essere nati nell'allevamento sbagliato, e per questo essere vittime e a subire determinate determinate condanne. Infatti io l'ultimo spunto su cui ti voglio lasciare, se ci stai ascoltando, se hai deciso di ascoltarci fino alla fine, è proprio questo: prova a guardarti attorno alle persone a cui tu sono più care, quindi i tuoi figli, tua moglie o tuo marito, i tuoi nipoti se sei già nonno o nonna, anche zio, i tuoi zii, oppure se tu sei zio, quindi i tuoi nipoti come zii. Bravissimo. Effettivamente i tuoi amici, tutte le persone, e qui parlo solo di persone, esseri umani, quindi lasciamo perdere tutti gli altri animali, quindi anche se tu hai un cane, non guardare il tuo cane in questo momento, guarda proprio gli esseri umani che hai attorno, a cui tu vuoi bene. Prova a pensare se qualche altro individuo, se magari un alieno, visto che parlavamo prima, dovesse arrivare sulla Terra e iniziare a sperimentare tutto ciò che noi abbiamo deciso di sperimentare su i nostri animali, se ci trattasse esattamente come noi trattiamo gli animali, quindi arrivasse e iniziasse a, come si vede tanto nei film, no? O come si sente gli incontri del quarto tipo, eccetera, in cui si fanno sperimentazioni, si dice, no, che queste persone siano state rapite per fare sperimentazioni. Ci, da una parte sorridiamo perché a volte non lo crediamo reale, io non sorrido per niente perché non so se sia reale o meno, potrebbe essere, come no, però non ridiamo di fronte nel dubbio non sorrido ci non ridiamo, no? Quindi non ridiamo di fronte a questo e pensiamo che possa essere una cosa sbagliata, no? Ok, prova a pensare quindi se tua moglie o tuo marito, tuoi figli, eccetera, eccetera, venissero presi, dissezionati, proprio per fini, ovviamente, di sperimentazione, senza che a loro sia stato chiesto nulla e soprattutto senza che a te sia stato chiesto nulla. Prova a rifletterci, prova a riflettere quale sarebbe il risvolto psicologico. E tu potresti dirmi, sì, ma i cani o gli altri animali mica la vedono in questo modo. E la mia risposta è, e tu che cacchio ne sai? Sei dentro il suo cervello? Per caso vedi il mondo come lo vedono loro? Anche i famosi scienziati di cui parlano, pensate che fino a un po' di tempo fa si pensava che i cani vedessero in bianco e nero. Oggi si è compreso che gli animali, i cani in questo caso, vedono tre colori fondamentali. E quindi, e tra un po' magari cosa scopriremo? Fino a un po' di tempo fa gli animali non erano considerati esseri senzienti, oggi sono considerati esseri senzienti. Magari, chissà, per la Chiesa non hanno un'anima. Beh, per la Chiesa può andarsi a far friggere, Andrea, sai. Sì, bravissimo. Per me tutti i preti e i vescovi non hanno un'anima, per cui, nel senso, soprattutto voglio dire, coloro che si identificano come salvatori della terra quando in realtà sono l'ente più potente e ricco del mondo, professano la, come si dice, la possibilità di dona, tu che sei poveraccio, che non hai soldi, dona quel centesimo alla Chiesa che aiuterà i poveri, e tu, maledetta Chiesa, perché invece non doni i tuoi averi, la tua gloria di Dio, quella che viene identificata come gloria di Dio, con arazzi, oro, diamanti, rubini, non la doni ai poveri che magari in quel momento hanno bisogno? Veramente quella non è la gloria di Dio, quella è la gloria di esseri umani pazzi e scriteriati, che ovviamente anche in questo caso si determinano come tali. Detto questo, quindi prova a osservare appunto i tuoi parenti, i tuoi amici, e prova a pensare all'effetto che avrebbe su di te. Detto questo, ti lascio questo spunto, non so se vuoi lasciarne altri te, Morena, forse no, direi di no, ho fatto questo mezzo sorrisino. Con questo spunto noi, con questo tono un pochettino più cupo se vogliamo, vi salutiamo, non so se volevi aggiungere altro. No. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo podcast, il prossimo venerdì. Alla prossima puntata, ciao! Ciao! E con questo la nostra puntata finisce qui. Alla prossima, da Morena e Andrea. Ciao!